abituati ad ascoltare questi pensieri. Quale direzione sta prendendo questo progresso? Ricco, potente, il mondo sta gettando l'eccesso. Ci avevano detto che non ci sarebbe stata più la guerra. Avevano detto che ci avrebbero lasciato la terra. Fermi, sull'attenti, continuiamo ad odiare. Coltivare la paura per chi non è uguale. Perché non fa per me il veleno dentro a bicchiere, il mondo che ti fotte. Non fa per me, non fa per me, no. L'odio croce nelle vene, il coraggio di reagire, questo fa per me. Cielo.